La cosa particolare è che le domeniche senza auto ecologiche sono state pensate al fine di sensibilizzare le persone sull'importanza di questo tema. Quindi eliminarle fa un doppio danno, non sensibilizza, anzi manda il messaggio contrario, cioè che ci sono delle cose importanti della qualità dell'ambiente e della salute, in particolare i saldi. Quindi in qualche modo possiamo dire in una battuta che forse è stata messa in saldo anche la salute, ecco, con questa iniziativa. Quello che è chiaro è che la qualità dell'aria a Bologna è pessima. Nel 2017 abbiamo avuto 40 sforamenti che non avevamo da diverso tempo, delle polveri sottili, e abbiamo sforato anche i limiti della media annuale degli NO2 e della presenza di ozono. Quindi tre dei parametri più importanti, appunto, per i rischi sulla salute. Il 2018, come diceva lei, non è iniziato meglio, nel senso che nel primo weekend, che doveva essere un weekend senza auto, invece la Giunta ha pensato bene di eliminare, e sono stati sforati tre volte i limiti. Significa che ci siamo mangiati in qualche modo il 10% degli sforamenti che avevamo a disposizione nel 2018 prima di incorrere nel superamento dei parametri europei. Questo weekend abbiamo già consumato molto del nostro possibilità di sforare, e ricordiamo che gli sforamenti, 35 sforamenti, dovrebbero essere casi eccezionali secondo l'Unione Europea, e invece per Bologna è la normalità. Questa giunta confonde, questa amministrazione confonde, secondo me, alcuni dati importanti, cioè il fatto che pensano e guardano alla qualità dell'aria di altre province che comunque sono messe anche peggio di Bologna per le polveri sottili, ma sono migliori per altri parametri. La cosa particolare di Bologna è che è una delle poche province emiliane, nonostante le altre appunto abbiano comunque livelli alti di inquinamento, che sfora tutti e tre i parametri. Secondo me è responsabile dare un messaggio contrario all'attenzione elevata per la salute e la qualità dell'aria. Ma non è una cosa che ci sembra distante dalle politiche di questa amministrazione. Non è un caso che i prati di Caprara rischiano di essere sacrificati per metterci degli outlet, quindi ancora una volta all'ambiente si preferisce il mercato, che passante di mezzo preveda l'allargamento a 18 corsie dell'autostrada, quindi ancora una volta preferisce immaginare che le persone si muovano e si debbano continuare a muovere con l'auto privata anziché con la modalità sostenibile, e che a San Donato e in molti altri posti si continua a costruire centri commerciali che sono un modello che di fatto sviluppa il traffico veicolare e quindi sviluppa l'inquinamento. Quindi tutto in linea, in coerenza di questa amministrazione, cioè l'annullamento del weekend e della domenica ecologica è perfettamente coerente con le politiche amministrative sul territorio e la pianificazione territoriale sulla mobilità, che privilegia la mobilità veicolare privata, e sul tipo di economia che vogliamo implementare. Invece i cittadini hanno dimostrato una elevata sensibilità in questo senso, e infatti abbiamo lanciato con una serie di associazioni che vanno da Rigenerazione a una Speculazione, che appunto lavora sui prati di Caprara, AMO, che lavora sulla mobilità sostenibile, Becco, che si oppone ai centri commerciali, in particolare a quelli in via San Donato, di una iniziativa che coinvolge i cittadini e che mira proprio a sensibilizzarli rispetto alla qualità dell'aria. Il rilevamento degli ossidi di azoto, quindi dell'NO2, che è uno degli inquinanti che maggiormente viene prodotto dal traffico veicolare, attraverso dei rivelatori passivi che quindi in qualche modo accumulano l'NO2 e permettono di analizzarlo all'interno di campionatori. Questa campagna ha due obiettivi: la sensibilizzazione, ma anche la denuncia del comune, sono volte non al miglioramento della qualità dell'aria, e questo può essere dimostrato anche dal fatto che evidentemente non solo le centraline che sono attualmente in funzione di ARPA, ma attraverso un'analisi capillare di quelle che sono le concentrazioni nelle varie parti della città, possiamo evidentemente identificare punti di criticità maggiori di quelli che sono attualmente verificati. Quindi avremo un quadro chiaro della situazione, avremo un quadro chiaro di qual è la differenza fra inserire, misurare gli NO2 all'interno di un parco come può essere i prati di Caprara, e qual è invece la differenza nel misurarle in una zona altamente urbanizzata e piena di centri commerciali come ce ne sono tanti a Bologna. Proprio nell'ambito delle iniziative del gruppo Area Pesa, cosa succede domenica 14 gennaio? Domenica 14 iniziamo la fase 2, perché abbiamo chiuso il percorso di prenotazione dei rilevatori che hanno coinvolto più di 300 persone, e quindi iniziamo a distribuirli con anche le condizioni di utilizzo e quindi anche il percorso poi per arrivare all'analisi degli N2, appunto. Quindi daremo le istruzioni, sarà un'assemblea al TPO via Casarini, in cui proveremo a iniziare la distribuzione con un kit che spieghi anche bene qual è l'utilizzo, dove posizionarli e quali sono le caratteristiche dei liberatori. La serata è accompagnata anche da la possibilità di cenare con una pizza biologica, che quindi rappresenta anche, diciamo, il modo di consumo che immaginiamo debba accompagnare quindi non solo la qualità dell'aria ma tutta la qualità all'ambiente, che in qualche modo rappresenta anche un modo per rendere evidente che c'è un altro modo di mangiare oltre che di respirare. E da questa dimostrazione di attenzione alla salute e alla giustizia ambientale da parte della cittadinanza, cosa ci si aspetta di ottenere da parte del comune? Quali effetti si spera di ottenere? Le analisi saranno fatte diffusamente ai cittadini e in alcune zone in particolare anche dai comitati che hanno promosso la campagna. In questo caso, appunto, quello che vogliamo rendere evidente è che l'esposizione degli NO2 dipende dalle scelte che si fanno sul territorio, e quindi vogliamo modificare la pianificazione dando maggiore importanza al verde, dando maggiore importanza alla mobilità sostenibile, evitando l'allargamento della tangenziale dell'autostrada, che già pesa moltissimo sulle qualità della vita delle persone che ci abitano attorno e quindi di fatto sulla salute e sulla vita di 90.000 bolognesi.